dietro permeabili grida, vorrebbero riscattare presenze che la carta soffoca lasciando un buco per la collera. Sulla radura dei tuoi capelli i giorni sono barche che camminano, fra la meta e l'abisso giacciono stalattiti, come seni penduli per il denso coprifuoco dei potenti pagode che vorrei crocifiggere almeno nella compensazione della santità. Le nozze dell'anima hanno acceso falò impenetrabili, il sol col senso, mentre il tempo si fa soffice, ed io con te bacio anche l'invisibile, che posso modellare con una piuma, rampicante dei miei silenzi, dei miei silenzi. Mi liberi con pochissimo, perché ogni parola che mi porgi è una pietra tranquilla, un candelabro di fiducia. Mazzo di voci che dividono l'eterno in tanti colori, sei una matita che scrive il mio nome anche in un'altra vita, sei un ombrello dei mille raggi che mi protegge dall'ombra, il tuo volto è riso, è riso di bellezza che si posa sul mio viso e non va più via, e ancora dura il tuo camminare, il tuo accogliermi che è come il risveglio, il tuo ascoltarmi che è come lo spazio in cui ho navigato, ancora non si perde il messaggio che da spiraglio è diventato porta, il mio portarti in braccio nei ricordi, era una striscia attorno al mio capo, al mio capo per sempre. Mi liberi con pochissimo, perché ogni parola che mi porgi è una pietra tranquilla, un candelabro di fiducia.